party, ascoltati lo zoo. Dalla radio, dall'ufficio, ascoltati lo zoo. Metti le cuffie, ascoltalo dall'iPhone. Non posso fare a meno di ascoltare. Dal lunedì al venerdì, ascoltati lo zoo. Dalla radio, dall'ufficio, ascoltati lo zoo. Metti le cuffie, ascoltalo dall'iPhone. Non posso fare a meno di ascoltare. Lo zoo, lo zoo, lo zoo. Lo zoo, lo zoo. Cinque.